Era precisamente questa la scoperta di fronte a cui mi metteva la recitazione della Permà. Questo e non altro erano la nobiltà, l'intelligenza della dizione. Adesso mi rendevo conto di quali fossero i pregi di un'interpretazione ampia, poetica, potente. O meglio, erano queste le cose cui si è convenuto di attribuire tali titoli. Ma come si dà il nome di Marte, Venere o Saturno a corpi celesti che non hanno niente di mitologico? Sentiamo in un mondo, pensiamo e nominiamo in un altro. Possiamo fra i due stabilire una concordanza, ma non colmare l'intervallo. Era proprio questo intervallo, questo scarto, che avevo dovuto superare il giorno in cui avevo sentito per la prima volta la Permà, quando, dopo essere stato tutto orecchi ad ascoltarla, mi era costato una certa fatica recuperare le mie idee di nobiltà interpretativa e di originalità, ed ero scattato ad applaudirla solo dopo un istante di vuoto, come se i miei applausi non nascessero dall'impressione in quanto tale, ma si riallacciassero a idee preconcette, al piacere che provavo nel dirmi «finalmente ascolto la Permà». E la differenza che passa fra una persona, un'opera di forte individualità e l'idea di bellezza esiste, nella stessa misura, fra ciò che esse ci fanno provare e le idee d'amore o d'ammirazione. Per questo non le riconosciamo. Ascoltare la Permà non mi aveva procurato alcun piacere, così come non me ne procurava vedere Gilbert. Mi ero detto, dunque non l'ammiro. Eppure non mi preoccupavo allora che di approfondire la sua recitazione. Non pensavo a nient'altro, concentravo ogni sforzo nel dare la maggiore ampiezza possibile alle mie capacità percettive per recepire tutto quanto contenesse. Capivo, adesso, che ammirare significava proprio questo. Il genio che nell'interpretazione della Permà trovava semplicemente la propria rivelazione era, insomma, soltanto il genio di Racine? Fu ciò che pensai da principio. Dovetti ricredermi quando terminò l'atto di Phèdre, dopo le chiamate alla ribalta da parte del pubblico, durante le quali la mia anziana, furente vicina, ergendosi in tutta la sua minuscola statura, mettendosi di sbieco, immobilizzò i muscoli del viso e incrociò le braccia sul petto per far vedere che non si associava agli applausi degli altri spettatori e rendere più evidente una contestazione, a suo parere sensazionale, ma che passò del tutto inosservata. Seguì una novità, una di quelle pièce che un tempo, per difetto di celebrità, mi sembrava dovessero risultare per forza esili e particolari, destituite com'erano di qualsiasi esistenza, a prescindere dall'evento della rappresentazione. D'altra parte, non subivo la delusione di vedere l'eternità d'un capolavoro ristretta alle dimensioni del palcoscenico e alla durata di una rappresentazione che l'esauriva né più né meno di una commedia di circostanza. Ma poi, ogni volta che avvertivo la passione del pubblico per una tirata, cominciai a pensare che un giorno sarebbe stata famosa e a compensare la celebrità che non aveva avuto in passato con quella che avrebbe avuto in futuro, compiendo uno sforzo mentale inverso rispetto a quello consistente nell'immaginare un capolavoro all'epoca della sua gracile comparsa, quando il suo titolo, che nessuno aveva mai sentito prima, non sembrava in alcun modo destinato a figurare più tardi, confuso in un'unica luce, accanto a quelli delle altre opere dello stesso autore. Un giorno, quella parte avrebbe affiancato, nell'elenco delle sue più belle interpretazioni, il ruolo di Phèdre. In se stessa, per la verità, non aveva alcun valore letterario, ma la Permà vi appariva non meno sublime che in Phèdre. Capì, allora, che per l'attrice l'opera dello scrittore era semplice materia, di per sé quasi indifferente per la creazione del suo capolavoro interpretativo. così come il grande pittore che avevo conosciuto a Balbec, Elstir si era ispirato, per due quadri di analogo valore, a un anonimo edificio scolastico e viceversa a una cattedrale che già per conto suo un capolavoro. E allo stesso modo che il pittore dissolve casa, carretto e personaggi dentro un grande effetto di luce in grado di renderli omogenei, la Bermà stendeva vaste coltri di tenerezza o di terrore su parole tutte ugualmente fuse, tutte piane un rilievo che un'attrice mediocre avrebbe staccato l'una dall'altra. Ciascuna, ben inteso, aveva una propria inflessione e l'addizione della Bermà non impediva di percepire i versi. Non è già un primo elemento di ordinata complessità, di bellezza, quando nell'udire una rima vale a dire qualcosa che al tempo stesso simile e diverso dalla rima precedente, che ne è motivato e tuttavia introduce la variazione di una nuova idea, si sente il sovrapporsi di due sistemi, il sistema del pensiero e quello della metrica? Ma la Bermà, in più, faceva entrare le parole e gli stessi versi, le stesse tirate, in aggregazioni ancora più vaste, al cui confine era affascinante vedere quei versi costretti ad arrestarsi, ad interrompersi. Così un poeta si compiace a far esitare un istante, in coincidenza con la rima, la parola che sta per slanciarsi, e un musicista a confondere le diverse parole del libretto in un unico ritmo che le contrasta e le trascina. Nelle frasi del drammaturgo moderno, come nei versi di Racine, la Bermà sapeva introdurre quelle grandiose immagini di dolore, di nobiltà, di passione che costituivano i suoi personali capolavori e nelle quali era possibile riconoscerla non diversamente da come si riconosce un pittore nei ritratti che ha dipinto con modelli via via diversi. Non avrei più voluto, come un tempo, poter immobilizzare gli atteggiamenti della Bermà, quel prezioso effetto di colore che offriva per un solo istante in una luminosità subito svanita e destinata a non più riprodursi, né farle ripetere 100 volte un verso. Capivo che il mio desiderio di allora era più esigente della volontà del poeta, dell'attrice, del grande artista incaricato di allestire i suoi spettacoli, e che quell'incanto sparso al volo su un verso, quei gesti instabili, continuamente variati, quel susseguirsi di quadri, erano il risultato fuggevole, lo scopo momentaneo, il capolavoro mobile che l'arte teatrale perseguiva e che l'attenzione di un ascoltatore troppo appassionato avrebbe distrutto nell'attimo stesso in cui avesse preteso di fissarlo. Non ci tenevo neppure a venire un altro giorno per riascoltare la Bermà. Ne ero appagato. Era quando ammiravo troppo per non essere deluso dall'oggetto della mia ammirazione, si trattasse di Gilberto della Bermà, che chiedevo in anticipo all'impressione dell'indomani il piacere rifiutatomi dall'impressione appena ricevuta. Senza cercare di approfondire la gioia che pure avevo assaporato e della quale forse avrei potuto fare un uso più fecondo, dicevo a me stesso, riecheggiando le parole udite un tempo da certi miei compagni di scuola, «Sì, è proprio la Bermà che metto al primo posto», anche se, confusamente, mi rendevo conto che, forse, il genio della Bermà non era tradotto con sufficiente esattezza da questa dichiarazione di preferenza e da questa decisione di assegnarle il primo posto, a dispetto della relativa calma che me ne derivava. Nel momento in cui ebbe inizio la seconda parte dello spettacolo, guardai dalla parte di Madame de Guermantes. La principessa, con un movimento a partire dal quale si disegnava nel vuoto una linea deliziosa che la mia mente prolungava per proprio conto, aveva girato la testa verso il fondo del palco. Gli invitati erano in piedi, rivolti anch'essi verso la porta, e fra le due siepi che si erano così formate, con la sicurezza e la grandiosità di una dea, ma singolarmente addolcite dalla simulata e sorridente confusione di chi, arrivando così tardi, falsare tutti nel bel mezzo della rappresentazione, entrò, tutta avvolta in mussole bianche, la duchessa di Guermantes. Andò dritto verso sua cugina, fece una profonda riverenza a un giovanotto biondo seduto in prima fila e, volgendosi verso i mostri marini e sacri che galleggiavano nel fondo dell'antro, indirizzò a quei semidei del Jockey Club, i quali, soprattutto il signor de Palancy, furono in quell'istante gli uomini che più mi sarebbe piaciuto essere, un saluto familiare da vecchia amica, allusivo alla quotidianità dei rapporti che aveva con loro da una quindicina d'anni. Avvertivo, ma senza riuscire a decifrarlo, il mistero dello sguardo sorridente dedicato agli amici nel lampo azzurrato che l'accendeva mentre abbandonava all'uno o all'altro la propria mano e che forse, se avessi potuto scomporne il prisma, analizzarle le cristallizzazioni, m'avrebbe rivelato l'essenza della vita sconosciuta che ne traspariva in quel momento. Il duca di Guermantes seguiva la moglie con i riflessi festosi del suo monocolo, lo scintillio della sua dentatura, il candore del suo garofano e del suo sparato plissé, di fronte ai quali, come per lasciare più ampio margine al loro riverbero, sembravano ritrarsi le sopracciglia, le labbra e il frac. Con un gesto della mano, che abbassò distesa sulle loro spalle senza piegarsi e senza muovere la testa, ordinò di rimettersi a sedere ai tritoni inferiori che gli facevano largo e s'inchinò profondamente davanti al giovanotto biondo. La duchessa sembrava aver indovinato che la cugina, le cui esagerazioni, parola che dal suo punto di vista, improntato a uno spirito tipicamente francese moderato, poteva adattarsi benissimo alla poesia e all'entusiasmo tedeschi, erano oggetto, a quanto si diceva, del suo scherno, avrebbe indossato quella sera una di quelle toilette che, secondo lei, la rendevano simile a una figura in maschera e aver deciso di darle una lezione di gusto. Invece dei meravigliosi, teneri piumaggi che dalla testa scendevano giù per il collo della principessa, invece della reticella di conchiglie e perle posata sui capelli, la duchessa aveva in capo una semplice aigrette, la quale, sovrastando il suo naso arcuato e i suoi occhi a fior di testa, pareva davvero quella di un uccello. Il collo e le spalle emergevano da un fiotto nevoso di mussola sfiorato a tratti da un ventaglio di piume di cigno. Ma più giù il vestito, il cui corpetto aveva come unico ornamento una gran quantità di lustrini di metallo a baghetto a grani e di brillanti, modellava il suo corpo con precisione squisitamente britannica. Ma benché le due toilette fossero così diverse l'una dall'altra, quando la principessa ebbe ceduto alla cugina la sedia occupata sino a quel momento, si videro le due dame scambiarsi, voltandosi l'una verso l'altra, occhiate di reciproca ammirazione. Forse Madame de Guermantes si sarebbe lasciata sfuggire un sorriso, parlando il giorno dopo dell'acconciatura un po' troppo complicata della principessa, ma non per questo, certo, si sarebbe dichiarata meno in estasi per la sua meravigliosa eleganza. E la principessa, che in base al suo gusto trovava qualcosa di un po' freddo, un po' secco, un po' da sartoria nel modo di vestirsi della cugina, avrebbe scoperto una squisita raffinatezza in quella sobrietà rigorosa. Fra le due, d'altronde, l'armonia, la prestabilita gravitazione universale della loro educazione neutralizzava ogni contrasto non solo d'abbigliamento, ma d'atteggiamento. Attraverso le linee invisibili e calamitate tese fra loro dall'eleganza dei modi, la naturale espansività della principessa finiva con l'attenuarsi, mentre la rigidità della duchessa, lasciandosi attrarre ed inflettere, si faceva incantevole dolcezza. Come, in quello spettacolo, per capire quanta poesia personale sapesse sprigionare la Berma, sarebbe bastato affidare la parte che interpretava e che lei sola poteva interpretare a una qualsiasi altra attrice, così lo spettatore che avesse alzato lo sguardo dalla platea avrebbe visto in due diversi palchi una tenuta che, secondo l'interessata, avrebbe dovuto ricordare quella della principessa di Guermantes e conferiva invece alla baronessa di Morienval un aspetto semplicemente eccentrico, pretenzioso e volgare. E un tentativo, al tempo stesso paziente e costoso, di imitare gli abiti e la classe della duchessa di Guermantes, che assimilava Madame de Cambremer a una collegiale di provincia, tenuta su col fil di ferro, dritta, secca e puntuta, con un pennacchio da carro funebre infilato verticalmente fra i capelli. Quest'ultima, forse, non era proprio al suo posto in un teatro dove tutti i palchi, persino quelli delle file più alte, che dal basso sembravano grossi panieri colmi di fiori umani e appesi al soffitto della sala tramite le briglie rosse delle paratie di velluto, tutti i palchi componevano, esclusivamente con le donne più brillanti dell'anno, un panorama effimero che le morti, gli scandali, le malattie e i litigi avrebbero ben presto modificato, ma che, in quel preciso momento, l'attenzione, il caldo, la vertigine, la polvere, l'eleganza e la noia cristallizzavano in quella sorta d'eterno, tragico istante d'attesa inconscia e di torpida calma che retrospettivamente sembra aver preceduto lo scoppio d'una bomba o la prima vampa di un incendio.